dai cambiamenti verificatisi nella società, potevo tanto più facilmente estrarre verità importanti e degne di cementare una parte della mia opera, in quanto essi non erano affatto, come in un primo momento potevo essere tentato di credere, peculiari al nostro tempo. Quando, io stesso appena arrivato e più novellino di quanto non fosse oggi lo stesso Bloch, ero entrato nella cerchia dei Germans, avevo certo scambiato per parti integranti dell'ambiente elementi affatto diversi, aggregati da poco e tali da apparire stranamente nuovi ai più anziani, dai quali io non li distinguevo e che a loro volta, creduti dai duchi d'allora, dei membri da sempre del Faubourg, vi erano stati un tempo, o i loro padri, o i loro nonni, dei parvenus. Insomma, non era la qualità di uomini del gran mondo a rendere così brillante quella società, ma la sua capacità di assimilare più o meno completamente, facendone persone del gran mondo, delle persone che, dopo 50 anni, sarebbero sembrate in tutto simili. Anche nel passato a cui facevo retrocedere il nome German per vederlo in tutta la sua grandezza, e ha ragione del resto, giacché sotto Luigi XIV i Germans quasi regali figuravano più grandiosamente di oggi, si verificava lo stesso fenomeno da me notato in quel momento. Non li si era visti allora, per esempio, imparentarsi con la famiglia Colbert, che oggi, è vero, ci sembra nobilissima, visto che sposare una Colbert appare come un ottimo partito per un La Rochefoucauld? Ma non è che i Germans si siano imparentati con i Colbert perché questi allora semplici borghesi fossero nobili. Furono i Colbert a diventare nobili perché i Germans si imparentarono con loro. Se il nome d'Haussonville si estinguerà con l'attuale rappresentante della casata, esso trarrà forse il proprio lustro dal fatto di discendere da Madame de Staël, mentre prima della rivoluzione il signor d'Haussonville, uno dei primi signori del regno, si vantava con il signor di Broglie di non conoscere il padre di Madame de Staël e di non poterlo presentare più di quanto potesse presentarlo lo stesso signor di Broglie, senza sospettare che i loro figli avrebbero sposato un giorno l'uno la figlia, l'altro la nipote dell'autrice di Corinne. Da quel che mi diceva la duchessa di Germans, mi rendevo conto che avrei potuto sostenere in quel mondo la parte dell'uomo elegante non titolato, ma che tutti considerano affiliato da sempre all'aristocrazia, che vi aveva sostenuta un tempo Swann e prima di lui Lebrun, Ampère, tutti gli amici della duchessa di Broglie, che a sua volta aveva ben poco a che fare all'inizio con il gran mondo. Le prime volte che avevo pranzato da Madame de Germans, dovevo aver provocato un vero colpo a uomini come il signor di Beauzerfeuille, più ancora che per la mia presenza, per le osservazioni comprovanti la mia assoluta ignoranza dei ricordi che costituivano il suo passato e davano forma alla sua immagine della società. Un giorno, quando ormai molto vecchio, avesse avuto una memoria abbastanza antica del salotto German, quale si presentava in quel momento ai suoi occhi, Bloch avrebbe provato lo stesso stupore, lo stesso malumore di fronte a certe intrusioni e a certe ignoranze. E d'altra parte, avrebbe certamente acquisito e dispensato attorno a sé le qualità di tatto e discrezione che avevo creduto privilegio di uomini come il signor di Norpois, qualità che si riformano e si incarnano in coloro che più fra tutti ce ne sembravano alieni. A me, d'altronde, il caso che mi si era presentato d'essere ammesso nella cerchia dei Germans era sembrato eccezionale. Ma se prescindevo da me e dall'ambiente che immediatamente mi circondava, vedevo che questo fenomeno sociale non era isolato come dapprima mi era parso e che dal bacino di Combray, dove io ero nato, erano tutto sommato abbastanza numerosi gli zampilli che simmetricamente a me s'erano innalzati al di sopra della stessa massa liquida che li aveva alimentati. Certo, poiché c'è sempre qualcosa di particolare nelle circostanze e di individuale nei caratteri, era stato in un modo affatto diverso che Le Grandin, attraverso lo strano matrimonio di suo nipote, era penetrato a sua volta in quell'ambiente, che la figlia di Odette si era imparentata con esso, che lo stesso Swann e io, infine, ci eravamo arrivati. A me, che ero passato chiuso nella mia vita e vedendola da dentro, sembrava che quella di Le Grandin non mi fosse legata da alcun rapporto e avesse percorso strade opposte, così come un affluente in una valle profonda non vede un affluente che segue un corso divergente e che tuttavia, malgrado questo scarto, va a gettarsi nello stesso fiume, ma a volo d'uccello, come fa lo statistico che trascura le ragioni sentimentali o le imprudenze evitabili che hanno condotto alla morte una determinata persona e calcola solo il numero di persone che muoiono ogni anno, si vedeva come parecchie persone partite da un medesimo ambiente, la cui descrizione ha occupato la prima parte di questo racconto, fossero arrivate in un altro affatto diverso. Ed è probabile che, celebrandosi ogni anno a Parigi un numero medio di matrimoni, ogni altro ambiente borghese, colto e ricco avesse fornito una proporzione all'incirca uguale di persone come Swann, come Le Grandin, come me e come Bloch, ugualmente confluite nell'oceano del gran mondo. Dove d'altronde si riconoscevano, perché se il giovane conte di Cambremer stupiva tutti con la sua distinzione, la sua raffinatezza, la sua sobria eleganza, io riconoscevo in esse, così come nel suo bello sguardo e nel suo desiderio ardente d'arrivare, qualcosa che caratterizzava già suo zio Le Grandin, cioè un vecchio amico perfettamente borghese, sebbene di modi aristocratici, dei miei genitori. La bontà, semplice maturazione che mette infine zucchero in nature originariamente più acide di quella di Bloch, è diffusa nella stessa misura di quel sentimento della giustizia grazie al quale, se la nostra causa è buona, non dobbiamo temere un giudice prevenuto più di un giudice amico, e i nipoti di Bloch sarebbero stati buoni e discreti sin quasi dalla nascita. Bloch non c'era forse ancora arrivato, ma notai che lui, che un tempo fingeva di sentirsi in obbligo di fare 2 ore di treno per andare a trovare qualcuno che nemmeno glielo aveva chiesto, adesso che riceveva tanti inviti non solo a colazione e a pranzo, ma anche ad andare a passare 15 giorni qui, 15 giorni là, ne rifiutava molti e senza dire nulla, senza vantarsi né di averli ricevuti né di averli rifiutati. La discrezione negli atti, nelle parole, gli era venuta con la posizione sociale e l'età, con una sorta, se così si può dire, di età sociale. Un tempo, certo, Bloch era tanto indiscreto quanto incapace di benevolenza e di consiglio, ma certi difetti, certe qualità, sono legati a questo o a quell'individuo meno che a questo o a quel momento dell'esistenza considerata dal punto di vista sociale. Sono quasi esterni alle persone, che attraversano la loro luce come si passa per solstizi diversi, preesistenti, generali, inevitabili. I medici, che cercano di rendersi conto se una certa medicina diminuisca o aumenti l'acidità di stomaco, se attivi o rallenti le sue secrezioni, ottengono risultati diversi non a seconda dello stomaco, dalle cui secrezioni prelevano un po' di succo gastrico, ma a seconda che il prelievo avvenga in un momento più o meno avanzato dell'ingestione del farmaco. Così, in ogni momento della sua durata, il nome Germain, considerato come un insieme di tutti i nomi che ammetteva in sé, intorno a sé, subiva delle dispersioni, raccoglieva elementi nuovi come quei giardini in cui dei fiori appena in boccio e che si preparano a sostituire quelli che già avvizziscono, si confondono di continuo in una massa che sembra identica, tranne a chi non è abituato a vedere da sempre i nuovi arrivati e serba nel proprio ricordo l'immagine precisa di quelli che non sono più. Più d'una delle persone che quel ricevimento riuniva, o di cui mi evocava il ricordo, grazie agli aspetti che aveva via via presentati per me, grazie alle differenti, opposte circostanze da cui, di volta in volta, era sorta davanti a me, mi proponeva, faceva risaltare i vari aspetti della mia vita, le differenze di prospettiva, così come un'impennata del terreno, collina o castello, che compare ora a destra, ora a sinistra, sembra dapprima dominare una foresta, poi sorgere da una valle, e rivela in tal modo al viaggiatore cambiamenti d'orientamento e differenze d'altitudine nella strada che sta percorrendo. E, risalendo sempre più su, finivo col ritrovare immagini d'una stessa persona, separate da un intervallo di tempo così lungo, conservate da io così distinti, dotate esse stesse di significati così diversi, che di solito, quando credevo di abbracciare il corso passato delle mie relazioni con esse, le omettevo, avevo persino smesso di pensare che fossero le stesse da me conosciute in altri tempi, e ci voleva un lampo casuale d'attenzione per ricollegarle, come a un'etimologia, al significato primitivo che avevano avuto per me. Mademoiselle Swann mi lanciava, dall'altro lato della siepe di spini rosa, uno sguardo di cui, d'altronde, avevo dovuto ritoccare retrospettivamente il significato, che era di desiderio. L'amante di Madame Swann, secondo la cronaca di Combray, mi guardava da dietro la stessa siepe, con un'espressione dura che a sua volta non aveva il senso che le avevo attribuito allora, ed era poi, d'altronde, talmente cambiato che non l'avevo affatto riconosciuto a Balbec nel signore che guardava un manifesto al casinò e di cui, una volta ogni 10 anni, mi capitava di ricordarmi pensando «Ma era il signor di Charlus, già, che strano!» Madame de Germain, al matrimonio del dottor Percepied, Madame Swann, vestita di rosa in casa del mio prozio, Madame de Cambremer, sorella di Le Gandin, così elegante che lui temeva che lo pregassimo di raccomandarci presso di lei, erano, come molte altre concernenti, Swann, Saint-Lieu, eccetera, altrettante immagini che mi divertivo a volte, quando le ritrovavo, a porre come frontespizio in limine ai miei rapporti con queste varie persone, ma che mi sembravano in effetti nient'altro che un'immagine, e nemmeno depositata in me dall'essere stesso a cui niente ormai la collegava. Non solo certe persone hanno memoria e altre no, senza arrivare all'oblio costante in cui vivono le ambasciatrici di Turchia e altri, oblio grazie al quale possono sempre, la notizia precedente essendo svanita nel giro d'una settimana, o la seguente avendo il potere di esorcizzarla, trovar posto per la notizia opposta di cui li si mette al corrente, ma anche a parità di memoria, due persone non si ricordano delle stesse cose. Uno ha prestato poca attenzione a un fatto per cui l'altro continuerà a nutrire grandi rimorsi e, in compenso, ha afferrato al volo come qualcosa di simpatico e caratteristico una parola che l'altro si è lasciata sfuggire quasi senza pensarci. L'interesse di non essersi sbagliati quando si è fatto un pronostico falso accorcia la durata del ricordo di tale pronostico e consente ben presto d'affermare di non averlo emesso. Infine, un interesse più profondo, più disinteressato, diversifica le memorie, tanto che il poeta, quasi completamente dimentico dei fatti che gli rammentiamo, serba in sé un'impressione fuggevole. Conseguenza di tutto questo è che dopo 20 anni di assenza ci imbattiamo, anziché in rancori presunti, in perdoni involontari, inconsapevoli, e in compenso in tanti odi, di cui, poiché abbiamo dimenticato a nostra volta la cattiva impressione suscitata, non riusciamo a spiegarci la ragione. Persino della storia delle persone conosciute meglio abbiamo dimenticato le date, e siccome erano passati almeno 20 anni da quando lo aveva visto per la prima volta, Madame de Germain avrebbe giurato che Bloch era nato nel suo stesso ambiente ed era stato cullato quando aveva 2 anni sulle ginocchia della duchessa di Chartres.